io ti farò tutta fiorita. E se sogni occhi dirai che all'uom dia Dio fiori e i miei occhi e tutta anche la vita. Figli, al bel figlio della tua bianchezza, yeah.